d'essere stato qui circa un milione di anni fa. Ricordo che volavo libero tra le montagne di Nevai, scendevo ad aria aperta e poi mi rifugiavo sopra un albero. Da lì guardavo il mondo e il cielo dominavo, e la mia casa era il blu, e l'aria che respiro mi sembra quasi un sogno. Ma qui ci sono stato, volavo libero. Il tempo si è fermato qui, tra le coperte e gli occhi tuoi, forse nascosto dietro l'angolo. Il cielo mio finisce qui, dove comincia la tua idea, dove il dolore è già un ostacolo. E il male che ti ho fatto non mi ha scavato dentro, ma brucia tutto quel che ho. Il tuo sorriso se l'è portato il vento, perché l'ho respirato, volavo libero. E come ti chiamavo non lo ricordo più, ma il nome tuo era bello e bello eri tu. In mezzo al tuo sorriso, questo lo so, quando ti vedevo si spalancava il cielo, e allora come un falco volavo libero. Mi sembra d'essere stato sotto le stelle, cieli bui, scorreva freddo un fiume limpido. Il tempo si è fermato, niente e nessuno mai potrà